Parlo del tempo senza tempo, di un mondo tutto chiuso in un secondo, e in un secondo gira in tondo. Ti incanto con parole mentre lo racconto. Parlo del tempo senza tempo, di un mondo tutto chiuso in un secondo, e in un secondo gira in tondo. Ti incanto con parole mentre lo racconto. Nel secondo in cui sto parlando, un amore sta nascendo, un altro è finito dentro il fango. Un pacifista manifesta per la pace, un terrorista sta studiando come dargli un colpo in testa. Un gallo alza la cresta, l'altro la bassa. Ce n'è uno che canta, l'altro mertuoso e non parla. Uno vive in prigione, condannato a sergastoli. L'altro si è convertito, adesso prega gli apostoli. Svariate persone, modi di vivere il mondo. Svarione situazioni diverse in un solo secondo. Diverse situazioni di intendere la vita. Uno che abbraccia un bimbo e l'altro il mitra. Parlo del tempo senza tempo, di un mondo tutto chiuso in un secondo, e in un secondo gira in tondo. Ti incanto con parole mentre lo racconto. Parlo del tempo senza tempo, di un mondo tutto chiuso in un secondo, e in un secondo gira in tondo. Ti incanto con parole mentre lo racconto. C'è un uomo che mangia un altro, muore di fame. Un uomo mangia un altro uomo, è per tutti normale. Un cane che abbaia e c'è un uomo che morde. Un soldato che muore di paura e l'altro che prende il fronte. Un altro che sulla fronte c'ha le rughe. Un altro pelle liscia ma ne ha viste di cotte e di crude. Uno che lotta per il pane quotidiano. Uno ricco sul divano che legge il quotidiano. Uno che ha fatto il patto con ogni italiano. L'altro, gli americani, ha preso un alieno per mano. Uno fa il fantino su di un pony. L'altro si vende la USA per due gettoni. Parlo del tempo senza tempo, di un mondo tutto chiuso in un secondo, e in un secondo gira in tondo. Ti incanto con parole mentre lo racconto. Parlo del tempo senza tempo, di un mondo tutto chiuso in un secondo, e in un secondo gira in tondo. Ti incanto con parole mentre lo racconto. Parlo del tempo senza tempo, di un mondo tutto chiuso in un secondo, e in un secondo gira in tondo. Ti incanto con parole mentre lo racconto. Parlo del tempo senza tempo, di un mondo tutto chiuso in un secondo, e in un secondo gira in tondo. Ti incanto con parole mentre lo racconto.